ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La parete di Marlene Haushofer. Traduzione di Ingrid Arbeck. Pareva che una grande mano avesse arrestato l'orologio nella mia testa. E subito dopo era mattino. Tigre passeggiava su e giù sul mio corpo. La prima luce mi cadeva in faccia e più lontano, nel bosco, strideva un uccello. All'inizio mi era mancato il sommesso concerto di uccelli che mi destava nella valle. Gli uccelli dell'Alpe non cantavano e cinguettavano, conoscevano solo il grido duro e squillante. Ero sveglia e corsi scalza incontro al giorno nascente. Il prato si stendeva immobile, ricoperto di gocce trasparenti che più tardi, quando il sole si levò sopra il bosco, presero a scintillare nei colori dell'arcobaleno. Andai nella stalla a mungere Bella e poi a farlo uscire nel prato insieme a Toro. Era già sveglia e mi aspettava. Suo figlio, quel dormiglione, stava ancora a terra, la testa china, il pelo della fronte attorcigliato in umidi ricci cadenti. Più tardi rigovernai la stalla, poi andai nella capanna per lavarmi e cambiarmi prima di far colazione. Lince e Tigre bevvero il latte ancora caldo e poi corsero all'aperto. La porta della capanna rimaneva aperta tutto il giorno, il sole illuminava il mio letto. A volte, quando il tempo era freddo e piovoso, la capanna diventava poco accogliente. Era allora poco più d'un tetto sopra la testa, non un focolare come lo chalet di caccia. Ma non pioveva spesso, e mai per più di uno o due giorni. Tigre giocava con le palline di carta e Lince passava il tempo a sonnecchiare nella nicchia della stufa. Mi occupavo molto del piccolo gatto. D'altronde non era affatto piccolo, era cresciuto parecchio e aveva i muscoli ben sviluppati. Il pelo lucido testimoniava la sua buona salute e i baffi si rizzavano folti e superbi. Era completamente diverso dalla madre, impetuoso, bisognoso d'affetto, sempre pronto a divertirsi. Aveva una vera passione per la commedia, con le parti principali sempre identiche: predatore infuriato, orribile e terrificante, gattino cucciolo, mansueto, derelitto e da compatire, pensatore riflessivo, distaccato dalla vita quotidiana, una parte che gli riusciva solo per pochi minuti, e gatto profondamente offeso, ferito nell'orgoglio maschile. Io ero tutto il suo pubblico. Lince, visto che gli spettacoli non si riferivano a lui, si addormentava sempre all'inizio. Ancora non si vedeva traccia di quel cupo e malinconico ruminare che talvolta colpisce i gatti adulti. Naturalmente sull'Alpe avevo molto tempo per occuparmi di Tigre e così accadde che diventai il suo compagno di giochi. Ma più che alla mia compagnia, Tigre teneva alla sua libertà. Non sopportava di venire rinchiuso e si accertava 20 volte al giorno che porta e finestre fossero aperte. La maggior parte delle volte si accontentava della verifica per poi tornare a dormire nell'armadio. Lince aveva da tempo cessato d'essere geloso del gattino. Credo non lo prendesse sul serio. Ogni tanto ci giocava, o per meglio dire, si lasciava bonariamente coinvolgere nei suoi giochi, anche se ne temeva gli eccessi di esuberanza. Quando Tigre veniva preso da uno dei suoi attacchi, portando lo scompiglio nella capanna, Lince mi rivolgeva uno sguardo da adulto, smarrito, leggermente irritato e senza comprensione. Solo non dovevo mai scordarmi di lodarlo. Lince viveva delle mie lodi e voleva gli ripetessi continuamente che era il migliore, il più bello e il più intelligente dei cani. Per Lince questo era importante quanto il correre e il cibo. Durante quelle settimane sull'Alpe acquistammo tutti un po' di peso. Dopo la finagione però tornai magra, scura come il legno e disidratata dal sole. Comunque non eravamo ancora a quel punto. Avevo cessato di prospettarmi le difficoltà che la falciatura del fieno mi avrebbe procurato e mi sentivo sicura come una sonnambula. Giunto il momento, Avrei provveduto a fare tutto ciò che la situazione richiedeva e come una sonnambula attraversai i giorni caldi e profumati e le notti sfavillanti di stelle. Ogni tanto dovevo sparare a un capo di selvaggina, restava sempre un brutto mestiere sanguinario sebbene riuscissi a compierlo senza inutili scrupoli. La sorgente fredda mi mancava molto. Ero obbligata a cucinare la carne in anticipo, per poi sistemarla nei recipienti di terracotta dentro a un catino d'acqua fredda che riponevo al fresco nella cameretta. Nella fontana non la potevo conservare perché Bella e Toro ci andavano a bere. Tigre predileggeva la carne cruda e quando non ne avevo più si metteva a caccia di topi. In caso di necessità sapeva ormai badare a se stesso. Era bene che fosse così, perché un giorno forse avrebbe dovuto cavarsela completamente da solo, senza il mio aiuto. A quell'epoca ero sempre alla ricerca di qualche verdura fresca. Mangiavo qualsiasi erbetta dall'aria commestibile e di gusto gradevole. Una sola volta mi sbagliai e mi venne un violento mal di pancia. Mi mancavano le ortiche. Quasi non riuscivo a trovarne, come se l'Alpe non fosse di loro gradimento. L'estate doveva essere stata calda e secca dappertutto. Ci furono 3 o 4 violenti temporali e sull'Alpe mi sembrarono ancora più temibili che nello chalet di caccia, dove gli alberi alti e la montagna che si ergeva a ridosso della casa mi davano un leggero senso di protezione. Sull'Alpe eravamo accampati in mezzo alle furie degli ammassi nuvolosi. Avevo paura, una paura che mi assale sempre in presenza di un forte rumore e inoltre una singolare sensazione di vertigine mai avvertita prima. Tigre e Lince si rifugiarono tremanti nella nicchia della stufa, cosa che altrimenti non gli sarebbe passata per la mente. Dovetti legare Bella e Toro nella stalla e chiudere le imposte. Mi consolavo al pensiero che fossero in due e che se avevano paura potevano stringersi l'una all'altro. Per quanto violenti fossero quei temporali, la mattina dopo il cielo era sereno e la nebbia fluttuava solo in fondo alla valle. Il prato dell'Alpe pareva navigare sopra le nubi, un vascello verde, scintillante d'umidità, sopra il bianco spumeggiare d'un oceano in tempesta. E questo mare si disperdeva solo molto lentamente per lasciare emergere le cime degli abeti fresche e bagnate. Allora sapevo che domani il sole avrebbe squarciato le nubi arrivando fino allo chalet e pensavo alla gatta, tutta sola nella conca umida. A volte, mentre osservavo Bella e Toro, l'idea che non avessero alcun presentimento del lungo inverno nella stalla mi dava sollievo. Conoscevano solo il presente, l'erba tenera, la vastità del prato, l'aria calda e carezzevole attorno ai fianchi e la luce della luna che di notte cadeva sul loro giaciglio. Una vita senza timori e senza speranza. Io invece avevo paura dell'inverno, della fatica con la legna, al freddo e nell'umidità. Per ora non avvertivo più nulla di quell'attacco reumatico, eppure sapevo che poteva ripetersi durante l'inverno e se volevo sopravvivere con i miei animali, dovevo a tutti i costi restare in grado di muovermi. Mi stendevo per delle ore al sole, quasi a volerlo accumulare per il lungo periodo di freddo. Non mi prese un'insolazione, la mia pelle era ormai più che resistente, ma mi venne il mal di testa e il cuore si mise a battere più in fretta di quanto avrebbe dovuto. Riacquistai subito il senno e rinunciai a quei bagni di sole, ma nel frattempo mi ero indebolita al punto che mi ci volle una settimana per riprendermi. Lince era molto scontento che non andassi con lui nel bosco e si lamentava, tentando di indurmi a giocare. Era venuto luglio e mi sentivo apatica e debole. Mi costringevo a mangiare, facendo tutto il possibile per tornare in forze prima del taglio del fieno. Verso il 20 di luglio, la luna era crescente, decisi di non attendere oltre e di approfittare del tempo favorevole. Un certo lunedì mi alzai già alle 3, munsi Bella, che si mostrò un poco irritata per quel turbamento dell'ordine, e portai nella stalla fieno fresco e acqua sufficiente per la giornata. Un po' a malincuore lasciai la finestra aperta per Tigre, gli preparai della carne e del latte e dopo una robusta colazione alle 4 lasciai l'Alpe con Lince. Alle 7 mi trovavo già nel prato accanto al ruscello ad affilare la falce. I miei movimenti continuavano a essere un po' rigidi, privi dello slancio necessario. Era una fortuna che qua giù il sole arrivasse solo verso le 9, perché in realtà era già troppo tardi per falciare. Falciai per 3 ore e tutto sommato, dopo la lunga marcia, andò meglio di quanto avessi immaginato. Meglio dell'anno prima, quando avevo ripreso in mano la falce per la prima volta dopo 20 anni e non ero ancora assuefatta al lavoro pesante. Poi mi lasciai cadere sotto un cespuglio di nocciolo e non mi mossi più. Lince tornò dalle sue piccole perlustrazioni e si accucciò accanto a me, ansimando. Una sola volta mi raddrizzai faticosamente a sedere per bere del tè dal termos, poi mi addormentai. Quando mi destai, le formiche stavano correndo sulle mie braccia nude ed erano le 2. Lince mi stava osservando con attenzione. Sembrò rassicurato dal mio risveglio e saltò su con un balzo di gioia. Mi sentivo spaventosamente fiacca, con un dolore acuto alle spalle. Il sole pesava sul pendio con tutto il suo calore. L'erba appena falciata era già vizza e senza riflessi. Mi alzai e incominciai a rivoltarla col forcone. Il prato era tutto un ronzare di insetti allarmati. Lavorai lentamente, quasi intorpidita, abbandonandomi completamente al brusio della quiete riarsa. Lince, una volta accertato che stavo bene, trotterellò al ruscello, allappare l'acqua a lunghi sorsi. Poi si accucciò all'ombra per sonnecchiare con la testa sulle zampe e le pieghe tristi del muso completamente ricoperte dalle lunghe orecchie. Lo invidiai. Una volta terminato di rivoltare il fieno, andai verso lo chalet. L'impronta lasciata dalla gatta sul mio letto mi fece sentire un po' più allegra. Dopo aver nutrito Lince e aver mangiato a mia volta un po' di carne fredda, andai a sedere sulla panca davanti alla casa. Chiamai la gatta e non venne. Poi lisciai il letto, chiusi la porta a chiave e ripresi la via del ritorno. Erano già le 7 quando arrivai sull'Alpe e andai subito alla stalla per mungere Bella, impaziente e irrequieta per la pressione del latte accumulato. Visto il bel tempo, la condussi con Toro al pascolo e la legai al piolo. Tigre stava sdraiato sul mio letto e mi salutò teneramente con aria di rimprovero. Questa volta, non essendo stato rinchiuso, aveva bevuto e mangiato. Gli diedi del latte caldo, mi lavai, misi la sveglia per le 3 e mi addormentai immediatamente. Subito dopo già suonava la sveglia e mi alzai barcollando dal letto. Avevo lasciato la porta della capanna accostata perché la sera Lince era uscito di nuovo all'aperto. Il chiarore della luna cadeva sulle tavole del pavimento e inondava il prato col suo freddo splendore. Lince stava allungato sulla soglia della capanna. Povero cane. Mi aveva fatto la guardia senza osare rintanarsi nella nicchia della stufa. Lo lodai e l'accarezzai, poi andammo insieme a prendere Bella e Toro al pascolo. Li condussi nella stalla, munsi Bella e lasciai loro acqua e foraggio. Tigre stava ancora raggomitolato nell'armadio e non si mosse. Come il giorno precedente, scendemmo a valle alla prima luce dell'alba. Le stelle stavano impallidendo e a oriente si levava il primo rossore. Quella mattina falciare fu un tormento. Ogni movimento mi faceva male e procedevo più lentamente del solito. E di nuovo, dopo 3 ore, mi lasciai cadere sotto un cespuglio di nocciolo e mi addormentai. Mi svegliai verso mezzogiorno. Lince sedeva accanto a me, lo sguardo fisso in direzione della valle, dove l'erba inselvatichita cresceva alta, incipriata dal polline bianco delle pannocchie e dei flabelli fioriti. In una terra priva di api, cavallette e uccelli, dove sotto il sole covava un silenzio mortale, Lince aveva l'aria molto seria e solitaria. Era la prima volta che lo vedevo così. Feci un leggero movimento e subito voltò la testa. Abbaiò gioiosamente e il suo sguardo tornò vivace e appassionato. La solitudine era svanita, subito dimenticata. Poi trotterellò al ruscello e io iniziai a rivoltare il fieno. Quello falciato il giorno prima potevo già portarlo nel fienile, era assolutamente secco, salvo una piccola parte situata troppo in ombra. Questa volta tornai sull'Alpe a liberare Bella e Toro solo alle 8. Tigre incominciò a infastidirmi. Essendo rimasto solo tutto il giorno, ora voleva giocare e io non ero quasi più in grado di muovermi. Il giorno seguente falciai meno, poiché più avanzavo verso l'alto, più rapidamente raggiungevo la parte esposta al sole. Il tempo rimase bello tutta la settimana e fui contenta di essermi attenuta alla vecchia regola meteorologica a proposito della luna crescente. L'ottavo giorno piovve e io rimasi a casa. La metà del prato era falciata e avevo bisogno di riposo, ormai non mi reggevo più in piedi. A causa della stanchezza quasi non avevo mangiato, bevendo solo del latte e del tè. Anche per Bella era bene tornare alla consueta mungitura regolare. Il latte le era diminuito un poco. Piovve quattro giorni, silenziosamente, nel grigiore. La pioggia cadeva in gocce minuscole. Distesa sul letto, vedevo i prati e i monti come attraverso una ragnatela. Segai qualche ramo secco e provvidi a rifornirci di carne. Ero stata costretta a buttare un terzo dell'ultimo cervo a causa del caldo, uno spreco che mi ripugnava nel più profondo dell'anima, al quale tuttavia non avevo rimedio. Trascorsi la maggior parte dei quattro giorni dormendo o giocando con Tigre, il quale, con la pioggia, non amava uscire nel prato. Avevo le mani escoriate e piene di piaghe che guarivano solo lentamente e tutte le ossa e ogni singolo muscolo indolenziti. Ma il dolore mi toccava appena, quasi non mi riguardasse affatto. Il quinto giorno, sul finire della mattinata, il tempo si rischiarò e nel pomeriggio il sole squarciò le nubi. La frescura della pioggia impregnava ancora l'aria e l'acqua tremolava sull'erba. Toro galoppò baldanzoso avanti e indietro sul prato e Tigre posò cautamente le zampe nell'erba prima di avventurarsi in una piccola caccia. Anche Lince si rianimò e, scrollandosi il sonno dal pelo, partì per i suoi brevi giri di ricognizione. Falciai l'erba, naturalmente sull'alpe c'era una falce, e la portai nella stalla. Per Bella e Toro la vita allegra era ormai sul finire. Il tempo rimase sereno quattro giorni, poi si fece soffocante e il cielo si rannuvolò. Avevo falciato il prato per due terzi e stavo risalendo verso l'alpe nella calura soffocante. Sentivo male al cuore. Forse era solo l'eccesso di fatica. Poteva però anche trattarsi di un residuo di reumatismo. Perfino Lince mi seguiva trotterellando avvilito, come colpito da una stanchezza paralizzante. Pensai che il lavoro stava diventando troppo faticoso per le mie forze e il cibo troppo monotono. Anche camminare mi faceva male. Gli scarponi rigidi mi avevano provocato una piaga al calcagno e la calza aderiva a quella piccola ferita. All'improvviso, tutto ciò che stavo facendo mi parve un inutile tormento. Trovai che avrei fatto meglio a spararmi per tempo. Se non ne fossi stata capace, non è del tutto facile suicidarsi con un fucile, avrei dovuto scavarmi un varco sotto la parete. Dall'altra parte c'erano viveri per cent'anni oppure una morte rapida, indolore. Cos'altro aspettavo? Anche se fossi stata miracolosamente salvata, cosa mai poteva importarmene dal momento che tutte le persone che avevo amato dovevano essere morte? Lince volevo portarlo con me. I gatti se la sarebbero cavata da soli e Bella e Toro, già, loro avrei dovuto ucciderli. Durante l'inverno sarebbero morti di fame. Ora la coltre di nubi era grigia come l'ardesia e una luce livida stagnava sulle montagne. Mi affrettai per arrivare a casa prima del temporale. Lince mi seguiva ansimando. Ero troppo stanca e scoraggiata per poterlo consolare. E poi nulla di tutto ciò aveva senso, era assolutamente indifferente. Uscendo dal bosco, udii il primo rombo sopra la mia testa, feci entrare Lince nella capanna, mi sfilai le scarpe e corsi alla stalla per alleggerire Bella del suo fardello. Mentre stavo sbrigando il lavoro, nella stalla scoppiò il temporale. La tempesta sferzò la distesa dei prati, le nuvole volavano basse e avevano un orribile aspetto grigio sulfureo. Ero spaventata e allo stesso tempo indignata per la violenza alla quale mi trovavo esposta con i miei animali. Legai Bella e Toro alla catena e chiusi le imposte. Toro si strinse contro la madre e lei gli leccò il muso, paziente e affettuosa, quasi fosse ancora un vitellino inerme. Bella non aveva meno paura di me, eppure cercava di rassicurare Toro. Tutto a un tratto, mentre stavo distrattamente accarezzandole un fianco, compresi di non potermene andare. Forse era stupido da parte mia, comunque era così. Non potevo fuggire e piantare in asso i miei animali. Questa decisione non nasceva da una riflessione o da un sentimento. Qualcosa di radicato nella mia natura mi rendeva impossibile abbandonare ciò che mi era stato affidato. Di colpo mi calmai e la paura cessò. Tirai il catenaccio alla porta della stalla per evitare che la tempesta la spalancasse. Poi corsi verso la capanna, attenta a non versare il latte. Il vento sbatté con un colpo secco la porta alle mie spalle e con un sospiro di sollievo tirai il chiavistello. Accesi una candela e chiusi le imposte. Eravamo infine al sicuro, una misera, piccola sicurezza, tuttavia protetti dalla pioggia e dalla tempesta. Tigre e lince si erano già accucciati l'uno accanto all'altro nella nicchia della stufa e non si mossero. Bevvi del latte caldo e andai a sedere al tavolo. Era sciocco consumare la candela, ma non avevo il coraggio di restare seduta nell'oscurità. E così mi sforzai di non ascoltare il rombo tra le nuvole e presi a esaminare il mio piede dolorante. La piaga si era aperta ed era incrostata di sangue. Feci un pediluvio, poi cosparsi la ferita con della tintura di iodio. Di più non potevo fare. Finalmente spensi la candela e mi allungai sul letto tutta vestita. Attraverso le fessure delle imposte vedevo saettare i fulmini. Alla fine la tempesta si placò leggermente e la pioggia si riversò a scrosci sull'Alpe. I lampi e i tuoni si susseguirono a lungo, ma il frusciare della pioggia mi tranquillizzò. Dopo molto tempo, il tuono si trasformò in un brontolio distante e subito dopo mi destai e vidi il sole brillare attraverso le imposte. Tigre miagolava lamentoso e lince mi diede un buffetto col muso. Mi alzai, spalancai la porta e i due si precipitarono all'aperto. Avevo freddo, ero rimasta tutta la notte coricata senza coperta. Erano le 8 e il sole brillava già alto sopra il bosco. Dopo aver liberato Bella e Toro, mi guardai attorno. Il prato si stendeva nell'umida luminosità del mattino. Tutti gli orrori della notte erano svaniti. Probabilmente nella valle continuava a piovigginare e io, come sempre col brutto tempo, pensai alla gatta. Ebbene, quella vita libera se l'era scelta da sé. Ma poi l'aveva fatto veramente? Dopotutto non era affatto in grado di scegliere. Non vedevo una differenza tanto rilevante tra noi due. Io in realtà potevo scegliere, ma solo con la testa. Per me questo contava meno che niente. La gatta e io eravamo fatte della stessa pasta e ci trovavamo nella stessa barca, trascinata, insieme a tutto ciò che viveva, verso le grandi cascate tenebrose. In qualità di essere umano avevo solo l'onore di rendermene conto, senza poter intraprendere nulla per arrestarla. Un ambiguo dono della natura, pensarci bene. Scacciai questi pensieri e scossi la testa. Sì, me ne ricordo con precisione perché la scossi con tale violenza da far scricchiare qualcosa nella nuca, tanto che per giorni interi andai in giro col torcicollo. Tornata in me, trascorsi i giorni seguenti a segar legna, aspettando che il mio calcagno si cicatrizzasse. Camminavo scalza, mi applicavo degli impacchi freddi e l'infiammazione infatti si calmò. Bevvi una quantità di latte, montai il burro, raschiai il pavimento della capanna, rammendai le mie calze sbrindellate, lavai la poca biancheria e sedetti sulla panca al sole. Solo al quinto giorno dopo il temporale scesi di nuovo con lince nella valle. Nei giorni successivi misi al riparo quanto restava del fieno. Terminai il lavoro verso le 2 e sopra dei rami di faggio trascinai l'ultimo carico dal limitare del bosco fino al fienile. Un lavoro enorme era stato compiuto, un lavoro che per mesi interi mi si era parato dinanzi come una gigantesca montagna. Ora ero stanca e soddisfatta. Non riuscivo a ricordare una soddisfazione tanto grande dal tempo in cui le mie bambine erano piccole. Allora, dopo le fatiche di una lunga giornata, quando i giocattoli erano stati riordinati e le bambine, dopo il bagno, si trovavano coricate nei loro letti, allora ero stata felice. Ero una buona madre per bambini piccoli. Appena si erano fatte più grandi e avevano iniziato la scuola, non ero più stata all'altezza. Non so a cosa fosse dovuto. Più crescevano, più insicura mi sentivo nei loro confronti. Continuavo ad avere cura di loro come meglio potevo, ma ormai mi capitava solo raramente di essere felice accanto a loro. A quel tempo mi ero riavvicinata molto a mio marito. Le bambine se n'erano andate, mano nella mano, le cartelle sulla schiena, i capelli svolazzanti, e io non avevo capito che quello era il principio della fine. O forse lo avevo presentito. Dopo non fui più felice. Tutto si modificò in modo così desolante e io cessai di vivere veramente. Riposi la falce, il forcone e il rastrello nel fienile e tirai il catenaccio alla porta. Poi andai allo chalet. Il ruscello aveva formato una pozza contro la parete. Guardai l'acqua gelida cercando di attirare l'ince verso la riva. Più tardi preparai del tè nella casa e divisi il mio pasto col cane. Il letto mostrava l'impronta della gatta e questo mi rasserenò. Forse in autunno ci saremmo di nuovo riuniti tutti accanto alla stufa calda. Lisciai il letto e poi ispezionai i fagioli. La fioritura bianca e rossa si era protratta per tutta l'estate e ora le piante si arrampicavano già cariche di piccoli baccelli verdi. La furia temporalesca aveva disseminato i petali dei fiori senza però piegare le canne e i rampicanti. Decisi di ingrandire di un bel pezzo l'orto dei fagioli per procurarmi gradualmente qualcosa di nutriente in sostituzione del pane. Nel frattempo era arrivato agosto. Tra poche settimane saremmo tornati al nostro alloggio invernale. Mi accertai che non fossero rimasti tizzoni ardenti nella stufa e con l'ince ripresi la via del ritorno. Ero contenta di aver superato quella grande fatica. Che Bella e Toro potessero tornare al pascolo durante il giorno e la mungitura riprendere i suoi orari normali. Questa volta Tigre non ci accolse con le sue grida. Se ne stava accovacciato con aria afflitta accanto alla stufa, la testa rinsaccata tra le spalle con un miagolio lieve e lamentoso. Lo accarezzai, ma lui non si mosse e quando l'ince andò ad annusarlo lo accolse con una brutta soffiata irritata. Più tardi, terminato il mio lavoro, mi accorsi che camminava zoppicando su tre zampe. Esaminare un gatto ferito non è un'impresa facile, tantomeno un gatto maschio del temperamento di Tigre. Lo sdraiai sulla schiena, grattandogli la pancia, finché mi riuscì di afferrargli delicatamente la zampa. Una spina o una scheggia di legno si era conficcata nel polpastrello. Tentai almeno una decina di volte di estrarla con una pinzetta. Infine l'esito fu felice solo perché in quel momento un uccello si trovò a passare davanti alla porta della capanna, distraendo l'attenzione di Tigre da me e dalla pinzetta. Il piccolo intervento era finalmente riuscito. Il gatto, indignato, fece un balzo facendomi cadere di mano la pinzetta e si precipitò fuori dalla capanna. Più tardi lo vidi seduto sulla panca, intento a leccarsi con zelo la piccola ferita. In fondo si era comportato abbastanza bene. I gatti sono facilmente presi dal panico. Qualsiasi frusciar di carta o movimento brusco riesce a fargli perdere la testa. In quanto animali solitari devono stare continuamente allerta, pronti alla fuga. Dietro il primo angolo di casa, dietro ogni cespuglio dall'aspetto innocuo, potrebbe celarsi il nemico. In loro c'è solo una cosa più forte della diffidenza e della cautela: la curiosità. Manuela Mandracchia ha letto La parete di Marlena Ausofer, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Ornella Bellucci e Filippo Travaglio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su RaiPlay Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.